L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. È stata una settimana intensa, ricca di avvenimenti anche drammatici, quella che rivivremo nella prossima ora, perché se guardiamo a quello che è successo da sabato scorso 10 aprile fino a ieri venerdì 16, troviamo davvero tanti avvenimenti terribili, per esempio il disastro aereo che ha decapitato i vertici politici, economici e militari della Polonia, l'incidente ferroviario purtroppo mortale in Alto Adige, la vicenda complessa e per certi versi anche inquietante di Emergency in Afghanistan e poi ancora terremoti ed eruzioni vulcaniche. Tra poco parleremo dei disastri naturali veri e propri, ma di terremoto dobbiamo parlare subito in avvio di trasmissione, però a proposito della politica italiana, perché la scossa è arrivata giovedì, a firma Gianfranco Fini, il bersaglio è naturalmente Silvio Berlusconi. Sentiamo allora la cronaca dei fatti e poi l'analisi, prima Elisabetta Fiorito e poi Stefano Folli ieri mattina. Ora di pranzo a Montecitorio, Silvio Berlusconi entra dentro lo studio di Gianfranco Fini, 2 ore e mezzo di colloquio e il gelo che caratterizza da mesi le relazioni tra i due si trasforma in rottura. Fini è pronto a formare un gruppo autonomo. Al presidente della Camera non piace l'appiattimento del PDL sulla Lega, quella Lega che rivendica le banche del Nord, come ribadisce passeggiando paradossalmente fuori dallo studio di Fini lo stesso Umberto Bossi mentre è in corso l'incontro. Termina la riunione e i partecipanti non commentano. Berlusconi parla del pranzo, Fini lascia al Premier le dichiarazioni, ma la notizia irrompe a metà pomeriggio. Arriva il comunicato di Fini che sembra un ultimatum. Il PDL deve essere attento alla coesione nazionale. Ma attenzione, niente crisi di governo. Berlusconi deve governare fino alla fine della legislatura. Durante l'incontro il Premier replica: Fini, se formi un tuo gruppo devi lasciare la presidenza della Camera. Notizia poi parzialmente smentita in serata. Berlusconi prende 48 ore di tempo. In sostanza è sereno, se Fini vuole andare via, la porta è aperta. Il presidente della Camera invece convoca i suoi nel suo studio a Montecitorio e inizia la conta. Una 50ina di deputati e poco meno di 20ina di senatori. Già pronto il nome del gruppo, PDL Italia. Stiamo assistendo alla più grave crisi del Popolo della Libertà dai giorni della sua fondazione, che era stata certo troppo frettolosa. Le incomprensioni tra Berlusconi e Fini hanno scandito i primi 2 anni della legislatura, ma oggi hanno messo in evidenza una serie di problemi politici e organizzativi drammatici che devono essere risolti una volta per tutte, pena la scissione del partito e di conseguenza il collasso sostanziale della legislatura. Dopodiché il rischio di elezioni anticipate diventa reale, anche se non imminente. Ma è possibile il compromesso tra i due fondatori? Forse sì, se si tratta di riorganizzare il PDL, riconoscendo uno spazio più incisivo agli uomini del Presidente della Camera. Quanto ai temi di fondo, il rapporto con la Lega, la prospettiva delle riforme istituzionali, essi sono superabili con pazienza e senso della misura. Se però manca questa volontà, la strada dei gruppi autonomi in Parlamento, costituiti dagli amici di Fini, è inevitabile. Ma in tal caso sia Berlusconi sia lo stesso Fini rischiano di essere sconfitti, perché sarebbe evidente il fallimento politico del PDL per come era stato concepito. L'unico a trarre vantaggio dalla situazione sarebbe Umberto Bossi. La Lega si troverebbe più che mai al centro della scena politica, ancora più condizionante delle scelte di Berlusconi. Toni forti li avete sentiti, quelli di Folli. Di sicuro siamo all'inizio di questa querelle tra Fini, Berlusconi, tra finiani e berlusconiani, poi perché sui numeri in Parlamento si giocherà questa battaglia. Di sicuro quella di Fini è una mossa estrema e quindi estremi sono anche i rischi. Ho detto che il bersaglio è Berlusconi, c'è da capire poi se verrà realmente colpito da questa uscita di Fini. Ed è curioso vedere che oggi chi fa da pompiere è proprio lui, Umberto Bossi. Al volo, prima di passare alle notizie del traffico, voglio così dare qualche annotazione di una serie di dati politici che sono emersi in questa settimana. Si sono chiusi i ballottaggi delle amministrative e il risultato più eclatante è la vittoria del centrodestra a Mantova, che era praticamente dal dopoguerra governata dalla sinistra o comunque dal centrosinistra. A Latina invece c'è stata una dimissione di massa in giunta dopo che il sindaco era stato pizzicato da un contributo galeotto di Striscia mentre parlava con la neogovernatrice del Lazio Polverini e diceva: ricordati delle figlie, insomma siamo in Italia, ma non sono certo comportamenti commendevoli quelli del sindaco di Latina. E nel frattempo a Roma Galan è diventato ministro dell'agricoltura, quindi ha ottenuto il risarcimento per non aver potuto correre in Veneto, dove invece si è insediato Zaia, nuovo governatore. Ma ormai possiamo dire che la Lega sta pensando ad altro ed è concentrata sulle banche del nord. L'ottavo giorno. Una delle notizie più importanti ma anche controverse della settimana, che è in evoluzione anche in questo momento in cui siamo in onda, è quella che riguarda i tre cooperanti di Emergency che sono stati arrestati dal governo afghano ormai una settimana fa. Ricordiamo i fatti di sabato scorso in questo servizio proprio del giorno successivo, della mattina seguente, firmato da Raffaella Calandra. Tre italiani arrestati, esplosivi sequestrati e un'accusa pesante: cospirare contro il governatore di Helmand. È ridicolo, taglia corto il fondatore di Emergency Gino Strada. Sono operatori della sua associazione, un chirurgo, un infermiere e un tecnico. I tre italiani portati via insieme a sei afghani dall'ospedale di Lashkargah dopo un blitz. Per le forze locali sarebbero combattenti rivoltosi stranieri, un'etichetta che può significare condanna a morte. La NATO si tira fuori mentre la polizia di Kabul dice di aver trovato sette cinture esplosive, bombe a mano e munizioni, armi per un attentato finanziato dai talebani già con $500,000. Nella visita all'ospedale dovevo essere io l'obiettivo, annuncia Gulab Mangal, governatore della provincia. Emergency è un testimone comodo di quanto succede lì, contrattacca Strada. A fine febbraio proprio uno dei tre operatori fermati raccontava che era tornata la paura dopo l'ultima bomba. La dinamica del blitz ad Emergency la ricostruiscono così Maso Notariani. Le forze ISAF NATO sono rimaste fuori dall'ospedale, è entrato solo personale afghani. Noi cercando di contattarli abbiamo ottenuto risposta da un ufficiale inglese che ha detto che stavano bene ma che non potevamo parlare con loro. La Farnesina intervenga è la richiesta di Emergency dopo che il Ministero degli Esteri aveva precisato come questa iniziativa umanitaria non sia tra quelle finanziate dalla cooperazione. In una nota il ministro Frattini ribadisce anche la linea di rigore contro qualsiasi attività di sostegno al terrorismo. Naturalmente un po' di acqua sotto i ponti è passata da sabato scorso, da questo servizio di Raffaella Calandra. Cercheremo di ragguagliarvi nei minuti di qui in avanti, nei quali mi farà compagnia Alberto Negri, spesso e volentieri, anzi forse malvolentieri, chi lo sa, inviato del Sole 24 Ore in Afghanistan. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora Alberto, io prima di farti la prima domanda voglio fare una premessa anche per chiarezza nei confronti di chi ci ascolta. Io naturalmente non discuto i meriti medici di Gino Strada, il suo coraggio, spesso va in zone insomma disagiate del mondo, però mi vengono invece spesso dei dubbi sulla sua gestione mediatica, sua e di Emergency, anche da Santoro l'altra sera ho avuto questa impressione. Soprattutto non amo il salto di qualità politico, per così dire, che spesso Gino Strada fa nei suoi ragionamenti. Però ho voluto fare questa premessa, insomma, per dire candidamente che non sono un fan sfrenato di Strada o del suo modo di intendere il pacifismo. Però detto questo, appena ho sentito la settimana scorsa delle accuse rivolte ai suoi tre uomini, ho pensato subito indiscutibilmente ad una bufala. E allora, su queste premesse ti voglio chiedere, Alberto, qual è il messaggio che sta dietro l'arresto e soprattutto chi è il destinatario dell'arresto e del messaggio, Emergency o il governo italiano? Ma dunque, innanzitutto qui bisogna dire una cosa, che il caso di Emergency ormai è diventato un caso politico, no? Cioè, al di là del fatto quali possono essere i nostri giudizi sull'organizzazione umanitaria, questa vicenda sta mettendo in contrapposizione due governi, il governo di Kabul e quello di Roma. Quindi è una vicenda ormai politica di respiro internazionale che potrebbe avere anche delle conseguenze gravi. Questo è il punto della situazione, cioè una situazione in cui noi ci troviamo ad avere un caso politico scatenato dall'arresto di questi tre cittadini italiani, e questo caso politico o si risolve in breve tempo o rischia appunto di avere strascichi e conseguenze anche incisive e notevoli. Quando parli di conseguenze gravi, cosa intendi? Beh, conseguenze gravi sono quelle di un crollo di fiducia fra i due governi, fra il governo di Kabul e quello italiano, perché è chiaro che in una situazione di questo genere, in cui non vengono chiarite le accuse e queste accuse per ora si dimostrano anche abbastanza inconsistenti, ecco, è chiaro che c'è una crisi di confidenza, di fiducia fra due governi, e questo è veramente grave nel momento in cui noi abbiamo schierati sul campo 3.000 uomini, nel momento in cui noi dovremmo mandarne altri 1000 entro la fine dell'anno per rafforzare il contingente, così come avevamo promesso anche agli alleati. E, insomma, in una situazione di questo genere è difficile poi poter collaborare in modo sereno. Ma vorrei capire a questo punto qual è il messaggio che ci ha mandato il governo afghano, che tu mi sembra inquadri senza ombra di dubbio nella parte del cattivo forse in questa vicenda, e vorrei capire a questo punto anche il governo italiano che parte sta facendo, se sta assolvendo davvero ai suoi compiti per naturalmente salvare e liberare i nostri 3 connazionali. Ma io non è che do giudizi di bontà o di cattiveria, io do dei giudizi di oggettivi, cioè nel momento in cui un governo tiene 3 cittadini di un altro paese senza esplicitare le accuse e senza che si capiscano quali siano le prove reali a loro carico, in quel momento, qualunque governo esso sia, ci sono dei problemi. Poi può darsi che il governo afghano possa avere anche delle prove, ma fino a questo momento non le ha ancora esplicitate. E poi attenzione, questi arresti sono stati effettuati senza avvertire preventivamente le autorità italiane, sia quelle diplomatiche sia quelle dei nostri servizi, e questo è alquanto strano. E tu, tra l'altro, Alberto, in un intervento di pochi giorni fa proprio qui a Radio 24 hai detto: se fossero stati cittadini americani o britannici, forse gli afghani sarebbero stati, come dire, meno disinvolti. Ma non c'è dubbio, anche il governo italiano, che sostiene il contrario, penso che lo faccia soltanto per motivi eminentemente diplomatici, ma lo sappiamo tutti che si sarebbero comportati diversamente. Per quali motivi allora effettuare questi arresti, forse sapendo anche di provocare un po' una crisi politica? Ecco, a questo punto forse bisognerebbe per un attimo sollevarci dal nostro ombelico, non guardare soltanto il ruolo dell'Italia in Afghanistan, ma più ampiamente il ruolo della coalizione internazionale in quel paese. Ci sono dei problemi grossi tra l'alleanza occidentale e Karzai. Questi problemi addirittura hanno portato il presidente afghano a dichiarare che gli occidentali hanno provocato i brogli durante le elezioni presidenziali, e questa è un'affermazione molto grave. Talmente grave che la prevista visita di Karzai a Washington per incontrare Obama è ancora in forse. Perché il governo afghano agisce in questo modo? Perché comunque sa che prima o poi gli occidentali se ne andranno, perché ha davanti degli appuntamenti molto importanti, la Loya Jirga, cioè questa assemblea nazionale che si deve svolgere a fine del mese, poi ci sarà la conferenza internazionale di Kabul, ma soprattutto è in programma l'offensiva militare di Kandahar, quella Kandahar la cui provincia è in mano al fratellastro di Karzai, Walid Karzai, che è molto discusso, si parla di lui malissimo negli Stati Uniti, gli stessi americani forse vorrebbero farlo fuori, vorrebbero eliminarlo dalla scena. Ecco, tutti questi fattori fanno sì che c'è un'alta tensione tra Karzai e la comunità internazionale. Scusa Alberto, ma se ho capito bene, quindi tu stai dicendo che Karzai o comunque il governo afghano ha voluto mandare un messaggio alla coalizione occidentale che è in Afghanistan e ha preso di mira l'anello più debole, o comunque quello più sensibile alla questione ostaggi, rapiti, prigionieri, cioè l'Italia. È così? Ho capito bene? Ma non c'è dubbio che sta mandando diversi messaggi in diverse direzioni, ma quella forse più importante è proprio quella della coalizione. Attenzione, c'è un altro episodio che ha provocato una fortissima irritazione da parte del governo di Kabul, che è stato recentemente l'arresto in Pakistan del numero 2 di Mullah Omar, il Mullah Baradar, che era in trattative dirette con Karzai sulla questione del negoziato con i talebani. Ebbene, anche questo arresto effettuato dai pakistani in collaborazione con gli Stati Uniti in Pakistan di Baradar ha provocato dei problemi. Ora, tutti questi elementi che sembrano in qualche modo lontani dal caso di Emergency, in realtà disegnano il quadro di una situazione che peraltro noi sul caso proprio di Lashkargah non abbiamo ancora esattamente chiara. Noi non sappiamo esattamente il ruolo effettivo di tutti i personaggi che sono sulla scena adesso e il ruolo che hanno rivestito in passato. Alberto, abbiamo ancora un minuto, ti voglio chiedere una domanda doppia, diciamo così. Da un lato vorrei capire il tuo giudizio sull'operato del governo italiano, che onestamente all'inizio è sembrato un po' goffo, si è un po' contraddetto, poi invece ieri l'inviato della Farnesina finalmente ha potuto incontrare i nostri tre connazionali. Seconda domanda, sottodomanda diciamo così, tu hai conosciuto personalmente Strada, che opinione ne hai? Dunque, sul problema del governo italiano, l'operato del governo italiano è stato condizionato chiaramente da una perdita di posizioni recentemente nella gerarchia diplomatica internazionale a Kabul. Prima di tutto è stato avvicendato il capo della missione NATO, che prima era un italiano, l'ambasciatore Ferdinando Gentilini. Successivamente ha finito il suo mandato un altro italiano, Ettore Sequi, rappresentante speciale dell'Unione Europea, ex ambasciatore a Kabul, in ottimi rapporti sia con Karzai che con Saleh, cioè col capo dei servizi segreti che ha operato gli arresti, e tra l'altro hanno aspettato proprio una settimana dopo che lui è rientrato per effettuare questa operazione, guarda caso. Quindi la situazione in ogni caso è una situazione problematica, perché ci dice che l'Italia ha perso posizioni proprio in quegli snodi sensibili delle gerarchie internazionali a Kabul, dove si prendono le decisioni e dove passano le informazioni che contano. Alberto, un flash su Gino Strada, perché stiamo per chiudere. Gino Strada è un personaggio controverso, è un personaggio che si dedica anima e corpo all'umanitario, ma insieme a questo chiaramente fa delle dichiarazioni politiche, soprattutto sul campo, in una situazione come quella afghana, dove le sue forti critiche ai servizi segreti, al governo afghano, certamente non gli hanno procurato simpatie. Questi se lo sono legati al dito da qualche anno e gliel'hanno fatta pagare. Grazie ad Alberto Negri. Oggi tra l'altro ci sarà un imponente, credo di non sbilanciarmi troppo nelle previsioni, imponente manifestazione su Emergency a sostegno di Gino Strada. Vedremo poi le cronache del giorno dopo. Ringrazio ancora Alberto Negri del Sole 24 Ore. L'ottavo giorno. Tra poco partiremo con una lunga scia, con una lunga teoria di servizi. Prima però voglio aprire una parentesi su una storia di questi giorni che ha trovato ampio risalto sui giornali e che sta diventando a suo modo emblematica. Mi riferisco alla vicenda che arriva da Adro, in provincia di Brescia, dove, ormai lo sapete, un benefattore, prima anonimo, poi in realtà identificato con nome e cognome, ha deciso di pagare la mensa ai bambini di quelle famiglie che non hanno pagato la retta a scuola, quindi è venuto incontro ai bisogni dei più piccoli. Si stanno già scatenando, in senso positivo lo dico naturalmente, dei casi di emulazione, soprattutto nel nord Italia. Intanto voglio dire che la beneficenza, per quanto sicuramente va encomiato il signore di Adro che l'ha fatta, non deve però farci distogliere lo sguardo dalla politica, che invece è la vera responsabile di queste situazioni e deve prendere le giuste decisioni per impedire anche vicende come quelle di Adro. Poi voglio sottoporre alcune domande, ognuno poi è libero naturalmente di dare la risposta che crede. Innanzitutto, perché c'è stato tanto stupore per il fatto che il benefattore avesse votato a destra? Questa è già una cosa che mi è sembrata piuttosto strana. Poi vi chiedo se a vostro giudizio il benefattore in questione è stato più buono o più furbo, forse entrambe le cose, chi lo sa. E infine l'ultima domanda che vi voglio sottoporre è questa: a settembre i bambini torneranno a scuola, credo che si ripresenterà il problema perché i soldi del benefattore saranno a questo punto già finiti. Voi, se foste gli amministratori anche della scuola e della mensa, che cosa fareste? L'ardua sentenza naturalmente a voi ascoltatori. Adesso cambiamo pagina, torniamo a sabato scorso, proprio nei momenti della nostra trasmissione, proprio nei minuti dell'ottavo giorno, perché ad un certo punto, vi ricorderete, ha fatto irruzione una spaventosa breaking news che così ha davvero squarciato un po' il clima di tutta la giornata di sabato. Le notizie arrivate in questi istanti dalle agenzie: l'aereo del presidente polacco Lech Kaczynski è precipitato in atterraggio in un aeroporto russo, lo riferiscono le autorità polacche all'aeroporto. Non ci sono altri dettagli, vi aggiorneremo su questa notizia. La notizia prende rapidamente forma, emergono i dettagli e soprattutto i numeri terribili di questa sciagura aerea. Sentiamo i dettagli con Vladimir Sapochnikov. Un errore fatale commesso dai piloti polacchi in avverse condizioni meteo oppure un guasto tecnico al velivolo costruito nell'Unione Sovietica 20 anni fa. Sono queste le due ipotesi più accreditate su cui stanno indagando gli investigatori della commissione d'inchiesta russo-polacca guidata dal primo ministro russo Vladimir Putin. Gli investigatori hanno recuperato le scatole nere del velivolo, ma Varsavia ha dichiarato che condurrà anche una propria inchiesta autonoma. La tragica morte del presidente presidente polacco Lech Kaczynski dei vertici politici della Polonia è un vero dramma per il popolo russo. Lo ha dichiarato in un messaggio televisivo al popolo polacco il presidente russo Dmitry Medvedev, che ha decretato per domani in Russia una giornata di lutto nazionale. Sotto inchiesta anche le autorità dell'aeronautica militare russa che gestisce l'aeroporto della città di Smolensk. Ma i controllori di volo russi hanno messo subito le mani avanti. L'equipaggio polacco volava troppo basso e avrebbe ignorato ripetutamente gli ordini della torre di controllo dell'aeroporto di Smolensk. In ogni caso, come hanno scritto i giornali russi, le paludose foreste di Katyn, dove durante le rappresaglie staliniane furono fucilate molte decine di migliaia di polacchi e di russi, hanno preteso un nuovo tributo di sangue. Questa è stata una settimana di lutto nazionale in Polonia in attesa dei funerali solenni. E non mi sembra invece che ci si possa attaccare, appellare a tesi complottiste di fronte a questa sciagura aerea. L'aereo presidenziale è caduto perché, in fondo, stringi, non è stato purtroppo dato ascolto ai russi che da tempo invocavano invece all'aereo di atterrare a Minsk, quindi molto prima in territorio bielorusso. Veniamo invece adesso ad un altro fatto grave, un altro terribile incidente che questa volta ci tocca da vicino, riguarda l'Alto Adige, riguarda le nostre ferrovie. Il momento fatale arriva lunedì mattina, sentiamo Stefano Totoro. Studenti e lavoratori, una quarantina in tutto, la maggior parte di loro percorreva quella tratta ogni giorno, pendolari, sul treno regionale che collega Malles a Merano, Val Venosta, provincia di Bolzano. Il treno parte alle 8.20, orario di arrivo previsto a Merano alle 9.43, ma il viaggio si ferma. All'improvviso, nel più casuale e tragico dei modi, alle 9.03. Sul treno si abbatte una frana larga 15 metri, 400 metri cubi di fango e terriccio. Colpisce in pieno il convoglio, rompe i vetri, lascia un vagone in bilico sull'Adige. I soccorsi arrivano immediatamente ma sono difficili. Il tratto della linea ferroviaria su una vallata mette a dura prova chi, anche con le mani, cerca di scavare nel fango per salvare i passeggeri. Alla fine muoiono in 9, 27 finiscono in ospedale, 7 ricoverati in maniera grave. Tutto sembra per la rottura di un tubo. Il prefetto di Bolzano, Fulvio Testi. La causa dell'improvviso smottamento è motivata dal fatto che un grosso tubo che porta l'acqua per l'irrigazione su un terreno sovrastante si sarebbe rotto, avrebbe intriso il terreno sovrastante di una massa d'acqua tale che ha provocato poi questo smottamento. La procura di Bolzano in serata ha iscritto 8 persone nel registro degli indagati, 6 dirigenti del consorzio irriguo della Val Venosta e 2 proprietari del terreno dal quale si è staccata la frana. Adesso voglio sfidare chiunque di voi all'ascolto a dirmi se non è rimasto a bocca aperta di fronte alle immagini che tutti abbiamo visto dell'eruzione vulcanica in Islanda, non tanto per le immagini in sé, che sono comunque straordinarie, affascinanti, tutto quello che volete, ma per le conseguenze che ha prodotto, perché di fatto i cieli di mezza Europa sono davvero finiti sotto sopra, ovvero i voli di mezzi degli aeroporti di mezza Europa sono stati bloccati da questa incredibile nuvola nera che ha veramente sconvolto il nostro continente. È davvero una cosa impensabile. Anche questa mattina in questione nei GR che ci hanno preceduto e che ci seguiranno potrete sicuramente ascoltare gli aggiornamenti su questa vicenda islandese. Io voglio farvi soltanto ascoltare un servizio andato in onda ieri mattina nel GR delle 7, ma prima, diciamo così, voglio regalare una battuta che mi è arrivata via mail da un ascoltatore che parafrasava il celebre film Ufficiale Gentiluomo, quello con Richard Gere, ricordava la battuta del sergente di colore che diceva: dall'Oklahoma arrivano soltanto due cose, le checche e i tori. Mi scuso per il politicamente scorretto riferimento, ma leggo testualmente dal film straordinario con Richard Gere. Qualcuno mi ha scritto: dall'Islanda arrivano soltanto due cose, i debiti, pensando poi alla bancarotta recente dell'Islanda, e i geyser, in questo caso geyser neri con nubi, colonne di fumo altissime. Detto questo, riascoltiamo Anna Rita D'Ambrosio. Immagini molto suggestive, questo è indubbio. Una nube bianca di cenere che quasi come neve fresca ricopre i ghiacciai islandesi. Il fuoco ad illuminare la distesa bianca. Tutto provocato dal risveglio del cratere del vulcano Fimvonduars, dormiente dal 1823. Il risveglio improvviso la causa di tanti disastri. Nelle zone immediatamente vicine, l'evacuazione di 1000 persone e 2 inondazioni conseguenza dello scioglimento del ghiacciaio. Nel vecchio continente, la temibile nube di cenere, pericolosissima per gli aerei in volo, come ci ha spiegato il comandante Alitalia Fabio Berti. Può provocare lo spegnimento dei motori. Ci sono stati casi eclatanti anche in Asia, dove addirittura un 747 ha avuto lo spegnimento di 4 motori e poi piano piano nel corso dell'emergenza sono riusciti a metterne in moto 2 e a portare a compimento il volo. Mobilitato Eurocontrol, l'organismo per la sicurezza aerea in Europa, mentre le autorità islandesi hanno raccomandato alla popolazione di indossare maschere antigas, invitandola a non uscire di casa se non strettamente necessario. Paese abituato a fenomeni di questa gravità, comunque l'Islanda, l'eruzione più nota nel 1783, quella del Laki, che provocò 9.000 vittime e causò una serie di anomalie meteorologiche su tutto il continente, creando una densa foschia per una settimana. Quell'estate, in Europa, fu la più rovente mai registrata. Tengo a precisare, riferendomi anche alla battuta che ho detto pochi minuti fa, che l'Islanda è comunque un paese bellissimo, e pensate che fino a pochi anni fa, fino a poco tempo fa, era in testa a tutte le classifiche ed era indicata come il posto più felice dove vivere. Poi insomma le cose sono un po' cambiate negli ultimi tempi. Restiamo ancora in Europa perché è giusto ricordare le ultime misure davvero speciali prese nei confronti della Grecia, che sta cercando invece di tirarsi fuori dalla sua bancarotta, bancarotta che tra l'altro secondo gli analisti potrebbe colpire a breve la Spagna di Zapatero, speriamo naturalmente di no. Sentiamo sulla Grecia i dettagli di lunedì mattina con Vittorio Darolda. L'Eurogruppo ha deciso di concedere 30 miliardi di euro di prestiti alla Grecia al 5%, molto al di sotto del 7 che è l'attuale tasso di mercato per Atene. Un passo importante che spiana la via alla possibile richiesta greca, che certamente non avrebbe mai avanzato una domanda senza sapere preventivamente le condizioni dell'aiuto. A disposizione della Grecia ora ci sono 30 miliardi dell'Eurogruppo per il primo anno di prestiti bilaterali che non hanno alcun elemento di sussidio, così come richiesto dalla Germania. La Merkel ha dato prova alla fine di coraggio politico, perché la scelta di aiutare Atene ai tassi del 5% arriva prima delle importanti elezioni della Renania-Vestfalia, dove vivono 18 milioni di tedeschi, previste il 9 maggio. In quell'occasione la Merkel dovrà difendere l'euro da quei tedeschi che si sono pentiti di aver aderito all'Unione Monetaria, una scelta che le potrebbe costare cara. Ma questa è la differenza che trasforma un politico in uno statista europeo. Per chiudere con l'Europa, ricordo che la Gran Bretagna è nel pieno della sua campagna elettorale. Giovedì abbiamo assistito al dibattito televisivo dei tre candidati. Voglio evitare ogni confronto che sarebbe impietoso con l'Italia. Tutti però invece sono stati d'accordo nel dire che Brown è stato meglio di Cameron, quindi il leader laborista meglio di quello conservatore, però il più bravo di tutti è stato Nick Clegg, ovvero il leader dei socialdemocratici, il cosiddetto terzo incomodo. E anche oggi voglio ritagliarmi un piccolo spazio per lo sport e per il calcio. Non parlo naturalmente del campionato perché non si possono ancora fare i conti con questa giornata. Ieri sera c'è stato Inter-Juventus, il derby d'Italia, ma per fare bene e correttamente i conti bisogna aspettare il derby di domani tra Lazio e Roma. Voglio invece parlarvi di un'altra partita delicata e infuocata, quella nei tribunali, quella del processo di Calciopoli, perché martedì è stata una giornata, un'udienza per meglio dire, da segnare sull'agenda, mentre sicuramente anche adesso c'è qualcuno che sta riascoltando le nuove intercettazioni che sono spuntate fuori, soprattutto da parte della difesa di Moggi e degli altri imputati. Sentiamo da Napoli Enzo Danna. Si basa su 75 intercettazioni telefoniche la controffensiva di Luciano Moggi al processo su Calciopoli, materiale fino ad oggi inedito che i suoi legali hanno chiesto al tribunale di acquisire, conversazioni tra designatori, arbitri e massimi dirigenti di club, rivelazioni di cene a casa del designatore Bergamo con i rappresentanti delle società che aprirebbero nuovi scenari, tutti elementi che a giudizio dei difensori di Moggi dimostrerebbero l'esistenza di un sistema generalizzato in cui tutti parlavano con tutti. Nel mirino c'è soprattutto l'Inter. È stato rivelato il contenuto di una intercettazione del novembre 2004 in cui l'allora presidente Facchetti chiedeva a Bergamo di designare l'arbitro Collina mattina per la partita della sua squadra. Sulla trascrizione delle nuove intercettazioni dovrà pronunciarsi il Tribunale. Dal pubblico ministero Giuseppe Narducci nessun veto. L'ufficio di procura non ha problemi a far trascrivere quelle che oggi tardivamente le difese giudicano telefonate eccezionali, rilevantissime, decisive. Si torna in aula martedì prossimo, quando tra i testimoni comparirà anche l'allenatore Carlo Ancelotti. L'ottavo giorno. Ancora qualche minuto assieme, un finale che sarà un po' malinconico, perché anch'io voglio ricordare, come per il resto ha fatto ampiamente in questi due giorni Radio 24, Raimondo Vianello, scomparso giovedì all'età di 87 anni. Questo il ritratto che è andato in onda nel GR delle 8 di ieri, firmato da Marta Cagnola. Raimondo Vianello è stato per più di 50 anni nelle nostre famiglie. Scusi signora, cosa sta facendo? Non lo vede, faccio delle maglie tubolari per corridori ciclisti. E lavora a Cottimo? No, lavoro qui a casa mia io. Qualcuno lo ricorda nei leggendari sketch in bianco e nero, i più giovani invece erano di casa a casa Vianello. Ma che ti sta succedendo? Tu hai un amante. Ma magari. Un amore, quello con Sandra, profondissimo, come ricorda Pippo Baudo. Era la quintessenza del rapporto tra uomo e donna, tra marito e moglie. In quegli scherzi che facevano, dei quali ridevano anche loro, c'era l'allegria del loro rapporto. E proprio a Sandra pensa ora Maurizio Costanzo. Mi auguro che Sandra, che non sta bene, abbia la forza di sopravvivere, perché è il pensiero che più mi ossessiona. Oggi in tanti parlano del suo humor anglosassone, ma lui era molto di più, ricorda Enrico Vaime. Raimondo era più avanti. Il comico, quando ottiene una risata con qualunque mezzo, gli va bene. Vianello aveva qualche esigenza in più e questo lo rendeva diverso, più interessante, più intelligente, ecco. Nel frattempo mi ha raggiunto telefonicamente in collegamento Marco Mele, esperto di televisione del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno. Di solito ci troviamo per affrontare argomenti spinosi, quelli nei quali insomma la politica entra a gamba tesa, soprattutto sulla RAI, quindi par condicio, conflitto di interessi, legge Gaspari. Qui invece stiamo per parlare insomma di un grande della televisione, qualcuno forse con un eccesso retorico ha parlato di padre della patria. Comunque insomma non si discute l'abilità in televisione come comico di Vianello, e con lui credo che se ne sia andato definitivamente l'ultimo testimone di una TV antica, quella degli esordi, quella di Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora. Io vorrei sapere da te Marco com'era quella TV, se soprattutto era meglio, come si tende praticamente tutti a dire, di oggi, ammesso poi che il confronto tra ieri e oggi sia possibile per il tubo catodico. Beh, era meglio perché era diversa, erano altri tempi televisivi, cioè si potevano fare, Vianello e Tognazzi insieme potevano fare delle scenette che si basavano proprio anche alcune sulla ripetizione, e basavano l'effetto comico anche proprio sulla ripetizione, cioè sulla possibilità di avere un tempo a disposizione che oggi è inesistente. In più era un sistema televisivo con pochissime reti televisive, cioè è il periodo ancora del monopolio Rai, delle due reti Rai, e questo dava la possibilità di concentrare più risorse e più attenzione, penso per esempio alla scrittura, sui programmi. Quindi sicuramente erano programmi migliori perché c'era molta meno competizione, soprattutto meno frammentazione dell'ascolto, e quindi più concentrazione di talenti, di risorse, di sceneggiatori, e quindi venivano fuori anche dei comici. Ricordiamo comunque che Vianello e Tognazzi sono cresciuti con la televisione, ma anche col cinema, e il cinema era una grande scuola anche. Anche se poi al cinema hanno avuto destini diversi, naturalmente, Tognazzi e Vianello. Destini diversissimi, perché Vianello è stato sempre un grande comico nazionale, mentre Tognazzi è diventato un grandissimo attore anche drammatico nazionale, affrontando anche impegni molto difficili e anche più decisamente più impopolari. Basta ricordare i film di Ferreri, sono straordinari. Il film di Ferreri, dalla Donna Scimmia alla Grande Abbuffata, ma anche film più impegnati come Il Commissario Pepe, cioè sicuramente film anche non eccessivamente popolari, con grande coraggio. Tognazzi ha affinato e nel tempo è riuscito a portare avanti la sua comicità televisiva, riuscendo anche a stare in sella anche quando la televisione è cambiata, cioè anche negli anni 80 e 90, quando col sistema televisivo misto i tempi sono accelerati, si sono ridotti, è aumentata ma di poco la frammentazione del pubblico. lui è riuscito, per esempio con Casa Pianello, a fare un formato televisivo che comunque funzionasse anche a livello comico. Marco, una battuta, sicuramente sì. Avrai letto i giornali ieri e oggi, insomma, sì. Si è parlato in lungo e largo di Pianello, poi in questi casi si rischia anche di dire delle banalità, magari vere, ma insomma rimangono banali. C'è qualcosa invece che non è stato detto a tuo giudizio su Pianello, che invece merita di essere ricordato e segnalato? Vabbè, sicuramente la sua grande capacità di essere un comico che lavorava in coppia, sicuramente uno, cioè del fatto di riuscire a dare la battuta e a fare insieme da spalla e con Tognazzi e con Sandra Mondaini, cioè, oppure di riuscire anche ovviamente da solo, quindi con grande capacità di lavorare in gruppo, pur essendo un grande comico, e poi era molto capacità di rappresentare l'intero pubblico nazionale. Questo è legato a quello che dicevo prima, cioè oggi ci sono dei comici o dei programmi comici che sono per determinati gruppi, cioè c'è chi ride, cioè chi si diverte, a cui piace Boris, ma è un piccolo gruppo, e Pianello invece era un comico nazionale, cioè riusciva a rappresentare, a far ridere tutti gli italiani allo stesso modo. Con questo riferimento hai già anticipato la mia ultima domanda, che in fondo è banale ma è inevitabile: ci sono eredi di Pianello oggi? No, ma non ci possono essere, non è che non ci sono. Ci sono alcuni bravi comici, ci sono alcuni, penso a Luciano Littizzetto, ci sono sicuramente diversi talenti comici. Penso appunto al gruppo di Boris su Sky, eccetera. Però è diverso, è tutto molto, molto diverso, molto più frammentato, e direi con molta meno attenzione ai testi anche, perché anche la comicità vuole dei testi, vuole una scrittura dietro, un lavoro dietro, poi vuole anche l'improvvisazione del comico, anche qui era molto, qui Pianello e Tognazzi sono bravissimi, e oggi mi sembra tutto, insomma, ci sono tanti comici, ma un comico, ma i grandi, ci sono tanti comici, ma non ci sono più i grandissimi comici di una volta. Ringrazio Marco Mele per il contributo, collega del Sole 24 Ore. Ricordo anche un libro che ha realizzato da poco, Un posto al sole, dedicato al mondo comunque affascinante delle soap opera. Adesso chiudiamo la puntata di oggi ricordando anche un altro lutto che è arrivato in questi giorni, che ha colpito il mondo del giornalismo. Mi riferisco a Edmondo Berselli, scomparso domenica. Era giornalista, firma importante per esempio del Gruppo Espresso, di Repubblica, ma anche scrittore raffinato e caustico allo stesso tempo. Radio 24 ha raccolto a caldo il ricordo di un amico di Berselli, Piero Ignazzi, professore universitario a Bologna. Edmondo Berselli è stato un intellettuale versatile, capace di coniugare interessi disparati, dalla politica al calcio, dalla musica leggera all'industria culturale. Li trattava tutti con il medesimo acume interpretativo e la medesima brillantezza espositiva. Berselli aveva incominciato dalla gavetta, come correttore di bozze presso la casa editrice Il Mulino, per poi assumere incarichi sempre più importanti fino alla direzione della rivista Il Mulino, dal 2000 al 2008. Allo stesso tempo aveva progressivamente conquistato un ruolo di primo piano nel dibattito pubblico, con le sue varie collaborazioni giornalistiche. Il suo stile era diretto, spesso ironico ma anche tagliente, senza sconti per nessuno, fossero politicamente vicini o lontani. Ma per quanto nette, le sue argomentazioni erano confezionate con una sfavillante ricchezza di riferimenti culturali e sempre dette con leggerezza, con una sorta di sorriso implicito, a rendere accettabile anche la critica più feroce. Il suo primo libro, giunto nel cassetto per anni, il più mancino dei tiri, apparentemente dedicato alle prodezze di un calciatore degli anni 60, Mario Corso, era in realtà una metafora arabescata dell'Italia. Nei suoi lavori successivi, Post Italiani, Sinistrati, Venerabili Maestri, per citarne solo alcuni, emergeva in filigrana la sua insofferenza per la cialtroneria e la volgarità, le sue profonde convinzioni democratiche e laiche, la sua ostilità di pelle per una politica ribalda e una società impingarda, la sua figura di intellettuale autentico, proprio perché poliedrico e indefinibile, di polemista rigoroso e brillante, lascia un vuoto enorme non solo in chi l'ha conosciuto ed avuto come amico, ma anche e soprattutto in un paese che ha un bisogno disperato di uomini con la moralità, l'intelligenza, la cultura e la finezza di Edmondo Berselli. E anche oggi siamo arrivati alla fine. ottavogiorno@radio24.it, la nostra mail. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi do appuntamento a sabato prossimo alle 9. Naturalmente tutta la settimana siamo sul sito www.radio24.it.